noi. Nemmeno un assenso, compagno del mio nome incomprensibile ma intenso. Di significato dopo il sostituito, ideale non conforme ma di certo più pulito. Lottare contro di voi, per me non ha senso. Lottare contro di voi, per me non ha senso. Per me non ha senso. Mia madre sale le scale in veste di puttana. Fanculo la Marcuzzi, il Bifidus e la sua vita sana. Altro che bambino sulle spiagge di Copacabana. Io sono il mio regista ma della mia vita non delino la trama. Il mio film va da solo come un vecchio ubriaco, schiavo di una congettura e di un mentore malato. E ho dato con tre dice su la mia mamma nel costato. E crescere fino ad ora lo sa lui quanto mi è costato. Ho tentato di cambiare le cose come fossero vestiti, collezionando delusione, tentativi falliti, calcando palco scenici, triti e ritriti, palcoscenici di violenza, non quelli dei tuoi miti. Le mie gioie lontane come le stelle che non vedi, le stelle vengono confuse con la De Filippi e Credi. In serbo per me nulla, ma tu non ci credi. Immerso nei cassetti con le tue mutande sporche i miei misteri. Lottare contro di voi, per me non ha senso. Compagno del mio nome incomprensibile ma intenso. Di significato da voi sostituito, ideale non conforme ma di certo più pulito. Lottare contro di voi, per me non ha senso. Lottare contro di voi, per me non ha senso. Per me non ha senso. Ridicola sognare il presepe di Natale. Anche il lago dei pastori è asciutto come il nostro canale. La mia positività sta nella consolazione di una cazzata. Non avendo niente non devo pagare nessuna rata. Informato della mia morte non pretendo alcuna data. Consultazione rilevante che risulta un po' scontata. Tutto cambierà ma mento solo a me stesso. Sono nero e sarà chiusa per me la porta d'ingresso. Sono ferito e il mio cuore non posso mettere il gesso. La decisione del mio futuro è stata presa in un congresso. E vado appresso ad una vita ideale di successo ma magari il vocabolo per descrivervi non si trova sui dizionari. Lottare contro di voi, per me non ha senso. Compagno del mio nome incomprensibile ma intenso. Di significato da voi sostituito, ideale non conforme ma di certo più pulito. Lottare contro di voi, per me non ha senso. Lottare contro di voi, per me non ha senso. Per me non ha senso. Soldi e non prendo parte di un'idea storta, cioè farmi piangere addosso come Marco Carta. Ho dei buchi nell'anima e mia madre non è la sarta. Non sono di quelli che la sua condizione è baratta. La tengo come una figlia che non combina niente. Mi consolo col ricordo del mio nero continente. Del negozio del mio destino sono il cliente, fisso con il pensiero che ormai è nella mia mente. Siamo seri, non entri in contatto con la mia condizione. Sotto effetto di una strega e la sua maledizione. A te basterebbe andare a far firmare una petizione a gente che ha come problema solo te. In quel momento sei lei. Lottare contro di voi, per me non ha senso. Compagno del mio nome incomprensibile ma intenso. Di significato da voi sostituito, ideale non conforme ma di certo più pulito. Lottare contro di voi, per me non ha senso. Lottare contro di voi, per me non ha senso. Per me non ha senso. Senso, compagno del mio nome incomprensibile ma intenso. Di significato.